Povero Contugenio, adesso sì che puoi dir di star fresco. Come mai evitare il cimento ora potrai? Che io dir debba Clarice che è il mio bene? No, non ti voglio amar. Allor vedrai cadere i piedi miei, se mi vivo è il mio bene. E quel viso pallido farsi di color di morte, scolonirsi vedrai quel nero ciglio e quel labrin vermiglio coprirsi di mortale oscura tinta. Potrei mancar la delicata voce e dirmi sdegnosetta in tuon pietoso. Crudele, perché turbasti il mio riposo? Parmi, tu dirlo, tu dirlo. Possa chiamarmi menzogner, anzi dirolle che spasimo, che peno. Adagio un poco. Quella che farà dietro la porta